Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Quante volte si sente abusare della parola mito? Questo termine dovrebbe indicare in realtà quelle narrazioni considerate fondanti di determinate culture. Quelle storie, cioè, in grado di racchiudere l'essenza dello spirito del tempo e spesso di spingersi oltre, andando a fondo nel raccontare la complessità dell'uomo. La storia che andiamo a raccontarvi oggi ha a che fare con uno dei più celebri e importanti miti dell'era moderna ed è di fatto l'affascinante vicenda della sua nascita. È il 3 aprile del 1928. Siamo a Londra, presso la prestigiosa casa d'aste Sotheby's, in New Bond Street. La sala principale è affollata di gente, come raramente è capitato prima d'ora. Collezionisti o semplici curiosi sono accorsi perché hanno saputo che sarà messo all'asta un pezzo davvero pregiatissimo e ambito. Nella sala, in mezzo alla folla, nelle ultime file, c'è anche una signora anziana, 76 anni, con un'aria molto malinconica e pensosa. È la padrona di quel pezzo da collezione di cui ha deciso suo malgrado di privarsi. Le servono soldi, tanti, e subito. E quello è indubbiamente il modo più rapido per farlo. L'oggetto in questione è il manoscritto originale di Alice in Wonderland. 15.401, 15.402, 15.403. Aggiudicato per 15.400 sterline al signor Rosenbach. 15.400 sterline, una cifra da capogiro per l'epoca. Una cifra che permette di vivere in serenità gli anni che rimangono ad Alice Liddell. Alice Liddell. Alice Liddell è profondamente legata a quel testo. La decisione di cederlo è sofferta e difficile, ma in qualche modo inevitabile. Mentre il libraio americano Rosenbach gioisce per il prezioso acquisto, Alice osserva malinconica la scena. Rivede lentamente con la sua immaginazione tutta la sua vita, cercando i ricordi appesi alla nascita di quel testo la cui eroina era stata modellata su di lei e che le era stato regalato nella preziosa copia manoscritta originale. La grande somma che è riuscita a ricavarne le garantirà stabilità e solidità, ma allo stesso tempo suscita in lei grande tristezza. La vita non è stata tenera con questa donna. Sposata con 3 figli, la prima guerra mondiale gliene ha portati via 2, mentre il marito, uomo forte ma rozzo, è scomparso nel 1926. Ora questo libro di cui lei era stata la musa ispiratrice e che aveva conservato con cura per oltre 60 anni, in qualche modo le salva la vita. Seguendo il torrente dei suoi pensieri, torniamo negli anni che avevano visto la nascita di Alice in Wonderland. Sulle orme dei pensieri di Alice Liddell, siamo andati indietro nel tempo fino a planare nell'Inghilterra vittoriana. Con il termine Victorian Age si indica il lungo regno della regina Vittoria, che inizia nel 1837, quando la regina ha solo 18 anni, per concludersi alla sua morte, ben 64 anni dopo, nel 1901. Durante questo lungo periodo, l'Inghilterra attraversa una fase di stabilità, prosperità economica e grande espansione commerciale e coloniale. Dietro questa facciata di grande potenza c'è però una società segnata da acutissime lacerazioni e percorsa da evidenti contraddizioni, spesso mascherate da impalcature di ipocrita perbenismo. Il perno politico dell'età vittoriana è costituito da William Ewart Gladstone, più volte cancelliere dello scacchiere e primo ministro. Grazie alla sua politica economica, le università inglesi, in particolare quelle più prestigiose, Cambridge e Oxford, dopo più di un secolo di oblio, tornano progressivamente al loro antico splendore. Oxford torna ad essere una delle mete più ambite per i giovani studenti talentuosi e per gli insegnanti maggiormente dotati. Qui, nel 1855, in uno dei numerosi college che costituiscono l'ossatura dell'Ateneo britannico, il Christ Church, diventa decano Henry Liddell, padre di Alice e di altri 9 figli. Alice Pleasance Liddell è nata a Westminster il 4 maggio 1852. È la quarta di 10 figli di Henry George e Lorina Hannah Liddell. Edward, Lorina e James sono i maggiori. Edith, Rhoda, Albert, Violet, Frederick e Lionel sono invece i più piccoli di questa numerosissima famiglia. Il contesto in cui Alice cresce è quello della tipica famiglia puritana dell'età vittoriana. Regole rigide, occultamento di qualsiasi forma di tensione, rispetto gelido delle convenzioni. Ciò nonostante, Alice e due delle sue sorelle, Lorena e la piccola Edith, dimostrano grande vivacità intellettuale, creatività e curiosità per il mondo. Alice ha anche qualcosa di ribelle che spesso la fa incappare nelle inflessibili punizioni familiari. L'educazione, nell'età vittoriana, non è certo una cosa semplice. Poco dopo essersi insediato al Christ Church, il padre di Alice, Henry Liddell, inizia a stringere amicizia con i professori del college e con le loro famiglie, che spesso frequentano casa Liddell. In particolare, Henry fa amicizia subito con un personaggio decisamente curioso. Si tratta di uno dei professori meno amati dagli studenti, un insegnante di matematica e logica le cui lezioni vengono ritenute pessime e confusionarie e spesso vengono disertate in massa dai ragazzi. Si chiama Charles Ludwig Dodgson e ben presto, nonostante le sue defaillance didattiche, diviene uno degli uomini più vicini a Liddell, con il quale condivide la stessa visione del mondo, spiccatamente conservatrice, e la passione per l'educazione. Dotato di grande intelligenza, Dodgson entra nelle grazie di Liddell, al punto da conoscerne in breve l'intera famiglia. Per quanto fossi preda di un profondo dualismo, le due nature in me coesistevano in perfetta buona fede, ed ero ugualmente me stesso sia quando, sciolto ogni freno, ero immerso nella vergogna, sia quando mi affaticavo a lavorare per il progresso della scienza o per dare sollievo al dolore e alla sofferenza. Vidi che, se potevo a ragione considerarmi l'uno e l'altro dei due esseri che lottavano nella mia coscienza, ciò si doveva al fatto che io ero radicalmente ambedue e ho cominciato a vagheggiare il pensiero della separazione di quegli elementi. Quello che avete sentito è un estratto di uno dei più celebri romanzi dell'età vittoriana, Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. Il romanzo di Stevenson racconta il dualismo degli uomini e di tutta la società dell'epoca vittoriana. Sottolinea, cioè, in maniera metaforicamente impeccabile, come due nature, una istintiva e fatta di pulsioni e l'altra razionale e controllata, coesistano in maniera non sempre pacifica. Abbiamo citato questo romanzo proprio perché Dodgson è un uomo la cui personalità è incredibilmente scissa in due parti, come se all'interno dello stesso individuo esistessero davvero due personalità distinte. Da una parte il lato Dodgson, pessimo professore di matematica, ossessivo, puritano, affettato, tedioso, imbrigliato in un mondo di numeri e di regole. Dall'altra parte una personalità opposta, anticonvenzionale, creativa, dissacrante, attenta all'arte e alle avanguardie. Questo suo secondo lato ha un nome. Sotto pseudonimo, infatti, Dodgson inizia a pubblicare negli anni 50 alcune opere letterarie che mostrano al mondo la sua genialità e la sua irrefrenabile vena creativa. Ad esempio, nel 1856 vede la luce il componimento poetico Solitude sulla rivista The Train. Viene firmato con lo pseudonimo con cui passerà alla storia: Lewis Carroll. Lewis Carroll. Il nome Lewis Carroll gli viene suggerito da Edmund Yates, direttore della rivista The Train. Il primo nome deriva da Ludovicus, versione latina del suo secondo nome Ludwig, mentre Carroll deriva dal suo nome di battesimo, Charles, versione anglicizzata dal latino Carolus. Negli stessi anni in cui il suo lato Carroll vede la luce, compra anche la sua prima macchina fotografica, una Hot Wheel pieghevole a cassetta che gli costa 15 sterline e diviene la sua fedele compagna di vita, trasformandolo in un appassionato fotografo. Dodgson scatta immagini di Oxford e dintorni, architetture, parchi, giardini, ma anche curiosità naturali e scene comiche o artistiche che allestiva lui stesso, talvolta sperimentando trucchi tecnici come la doppia esposizione. La vita di Charles Dodgson è però l'esistenza di un uomo perennemente ai margini della società, una vita malinconica e dolente. Qualcosa nella sua infanzia pesa come un macigno nel suo cuore e gli impedisce di stringere legami solidi e duraturi con gli adulti. In lui qualcosa è rimasto fermo all'infanzia. Per questo motivo Dodgson sembra entrare più facilmente in sintonia con i bambini. Non è un elemento semplice da gestire. Lo stesso scrittore sente che c'è qualcosa di profondamente inquietante nel suo rapporto con i bambini. Riuscirà sempre a tenere a bada ogni forma di eccesso, vivendo però irrimediabilmente immerso in una cupa solitudine. Charles Lutwidge Dodgson nasce nel 1832 nel Cheshire. Ha 3 fratelli e 7 sorelle e vive i primi 11 anni della sua vita in campagna perché suo padre è parroco di un paesino estremamente bigotto e retrivo. Dodgson, in molti suoi scritti, parla della sua infanzia descrivendola come il più meraviglioso dei paradisi. Da quell'infanzia così splendida, però, esce indubbiamente piuttosto ammaccato. Lui e 6 delle sorelle balbettano. Questo difetto del linguaggio diventa un incubo quando Charles viene iscritto alla Rugby School, nella contea di Warwickshire, dove alla fine del XIX secolo verrà inventato il popolare sport con la palla ovale. Dodgson vi viene mandato all'età di 14 anni, quando è balbuziente, delicato, sensibile, di aspetto quasi femminile, e vi rimane fino ai 17. È per lui un'esperienza brutale. Nessuna considerazione potrebbe indurmi a ripetere i miei 3 anni. Posso dire onestamente che se fossi stato risparmiato dai disturbi notturni, sopportare la durezza della vita diurna sarebbe stato in confronto un non nulla. I disturbi notturni, cui allude Dodgson in questo estratto da una sua lettera, fanno riferimento a qualche sorta di molestia subita mentre si trova in collegio. Non ci è dato sapere di più. Da quel momento però qualcosa in lui si rompe, generando la necessità di conservare una parte di sé protesa verso la purezza dell'infanzia. Dodgson rimane per sempre un uomo fatalmente scisso. È buono di natura, debole e docile, e non ha il coraggio di opporsi ai desideri del rigido padre. Adora il teatro e ha un animo artistico, giocherellone, ribelle e creativo. Ma la voce del padre lo spinge a prendere gli ordini minori e diventare diacono. Percorrerà la vita su 2 strade divergenti. Dodgson il reverendo, vestito di nero da capo a piedi, conservatore fino all'estremo in tutte le sue manifestazioni religiose o politiche, bacchettone al punto da abbandonare un teatro furibondo se un attore entrava in scena vestito da donna. E Lewis Carroll, geniale trasgressore, con un senso dell'umorismo che avrebbe potuto scardinare tutte le convenzioni, appassionato di un'arte d'avanguardia qual era ai tempi la fotografia, anticonformista, un involontario rappresentante perfetto della dualità, della repressione e dell'ipocrisia dell'epoca vittoriana. Alcuni critici hanno sottolineato come l'enorme portata della sua repressione si colga leggendo i diari personali, dove non parla mai dei propri sentimenti. Le emozioni sembrano escluse e proibite, a eccezione di un certo sentimentalismo stereotipato e di maniera. Se si escludono anche alcuni passaggi tormentati e molto criptici sulla sofferenza provata a tenere a bada certi pensieri impuri, il suo diario privato non schiude alcuna intimità. Perché per Charles Dodgson l'emotività era una sorta di voragine innominabile di cui non era neppure cosciente. E per evitare di essere perseguitato dai suoi mostri sotterranei, imbrigliava i suoi fantasmi urlanti in una gabbia di calcoli matematici. Dodgson, il professore, con l'impegno perenne e ossessivo dei suoi complicatissimi calcoli mentali, aveva trovato il modo di tenere a bada l'oscurità del suo animo. Si è detto che tutta la sua vita è stata una sorta di gigantesco eufemismo. Quando Lewis Carroll conosce Alice Liddell, la piccola ha 4 anni e lui 24. L'incontro avviene a casa dei Liddell. Carroll stringe con lei, Edith e Lorena, un rapporto di amicizia molto forte e sincero. Spesso le osserva giocare nel giardino del decanato, va a trovarle tutti i giorni, fa loro foto e regali, scrive delle lettere. Con il passare degli anni Alice diventa la prediletta. Quasi 6 anni dopo il loro primo incontro, nel 1862, durante l'estate, prende l'abitudine di fare gite in barca con le 3 sorelle Liddell e con il reverendo Robinson Duckworth. La gita in barca del 4 luglio è destinata a segnare la storia dell'arte contemporanea e a determinare una svolta indelebile nella vita di entrambi. Tra poco, a Destini Incrociati. I'm free. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia della nascita di Alice in Wonderland, una delle opere che più hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Il romanzo nasce dall'incontro tra Charles Dodgson, in arte Lewis Carroll, diacono e insegnante di matematica presso il Christ Church College di Oxford, ed Alice Liddell, figlia del decano del college Henry Liddell. La circostanza occasionale per la nascita del racconto è una gita in barca che avviene il 4 luglio 1862. Una piccola barca a remi, un percorso sul fiume Isis, un affluente del Tamigi, da Folly Bridge fino ad Oxford, a Godstow. Il viaggio è lungo, così una delle ragazze chiede a Dodgson di inventare una storia. Tante volte è successo che il reverendo abbia improvvisato per le bimbe una storia, riuscendo sempre a catturare la loro attenzione. Quel giorno però si sente particolarmente ispirato. La sua creatività sgorga, fluisce a briglia sciolta. Decide di dedicare la storia alla sua prediletta Alice, e chiama così la protagonista del suo racconto. Alice cominciava a essere molto stanca di starsene seduta accanto alla sorella sulla riva, senza niente da fare. Uno o due volte aveva sbirciato nel libro che stava leggendo sua sorella, ma non c'erano figure né dialoghi. E a che serve un libro, pensava Alice, senza figure né dialoghi? Stava dunque meditando tra sé, per quanto le fosse possibile, perché il caldo della giornata le metteva sonno e la faceva sentire stupida. Se il piacere di intrecciare delle margherite valesse il disturbo di alzarsi e raccoglierle. Quando un coniglio bianco, con gli occhi rosa, le passò vicino di corsa. È uno degli incipit più famosi della storia della letteratura. Non è difficile immaginare lo stupore rapito delle tre bimbe e del reverendo Duckworth che li aveva accompagnati nel sentirsi raccontare completamente a braccio e completamente improvvisata una storia del genere. Si sentono raccontare di Alice, che sogna di esplorare un mondo fantastico, che vede il suo corpo ingrandirsi e rimpicciolire, che quasi annega in un lago creato dalle proprie lacrime, che incontra un bruco su un fungo e una collerica regina di cuori. Nessuno dei partecipanti a quella gita immagina nemmeno lontanamente di aver appena assistito al concepimento di un classico della letteratura mondiale. La piccola Alice non può nemmeno supporre di essere stata la musa ispiratrice di un racconto destinato a diventare un modello, un punto di riferimento, un pilastro della cultura moderna. Lei, le sorelle e il reverendo Duckworth, quando la storia è finita, non esitano a dire che la storia di quella bimba curiosa, indisciplinata e terribilmente annoiata è la più bella che il loro narratore abbia mai raccontato. Le ragazze rimangono affascinate dal racconto che l'uomo, nonostante la balbuzie, ha raccontato armoniosamente e con fluidità. A fine giornata, quando la luce dell'estate nella campagna inglese si fa più fioca e la temperatura più mite, sulla via del ritorno a casa, Alice, Alice, estasiata dalla storia del suo alter ego, chiede a Dodgson di scriverla per lei. Lo scrittore si mette immediatamente all'opera. Passano diverse settimane, mesi, prima che Charles Dodgson abbia concluso il suo lavoro. Nel frattempo il rapporto con i Liddell si deteriora. La sorella di Alice, anni dopo, le scriverà così a proposito della rottura con lo scrittore. Quando cominciasti a crescere, il suo atteggiamento nei tuoi confronti diventò troppo affettuoso e mamma glielo fece notare. Lui si offese tanto che tutto finì in quel momento. Nel febbraio 1863, Charles Dodgson annota nel suo diario di avere terminato un libricino dal titolo Alice's Adventures Underground. Passerà ancora del tempo prima che egli aggiunga anche le illustrazioni al testo. Nel novembre del 1864 dona finalmente il libro ad Alice, con cui non ha più alcun rapporto. La dedica recita: un dono di Natale a una cara bambina, il ricordo di un pomeriggio d'estate. Poco dopo averne fatto omaggio alla piccola Alice, Charles Lutwidge Dodgson decide di pubblicare il racconto. Elimina alcune allusioni alla vita domestica della famiglia Liddell e amplia il testo in misura significativa, aggiungendo due nuovi capitoli, Porco e Pepe e un tè da matti. In questo modo, la versione che va in pubblicazione con il titolo di Alice's Adventures in Wonderland è lunga quasi il doppio rispetto a quella precedente. Il risultato finale è un racconto pieno di allusioni a personaggi della storia della letteratura, a poemi classici, intessuto di proverbi, storie e avvenimenti dell'epoca, ambientato in un universo, il Paese delle Meraviglie, che si configura come un mondo onirico, calato dall'inconscio, in cui lo scrittore gioca continuamente con regole logiche, linguistiche, fisiche e matematiche in un serrato racconto surrealista. «Allora dovresti dire quello a cui credi», riprese la lepre Marzolina. «È quello che faccio», rispose subito Alice. «Almeno credo a quello che dico, che poi è la stessa cosa». «Non è affatto la stessa cosa», disse il cappellaio. «Scusa, è come se tu dicessi che vedo quello che mangio è la stessa cosa di mangio quello che vedo». Non essendo soddisfatto delle proprie capacità di illustratore, Dodgson si rivolge a John Tenniel, noto per le vignette che disegnava per la rivista Punch e per le sue illustrazioni di libri. Quando gli stampatori approntano le prime copie nel luglio 1865, Tenniel nota la scarsa qualità della stampa e Dodgson decide che l'intera tiratura di circa 2000 esemplari deve essere immediatamente ritirata dal mercato. La nuova edizione, la prima ufficiale del romanzo, viene distribuita solo nel novembre dello stesso anno. Ed è un trionfo. Nel 1869, lo stesso anno in cui l'autore inizia a lavorare ad Attraverso lo specchio, il seguito del primo volume, escono le prime traduzioni ufficiali di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie in francese e in tedesco. La prima traduzione italiana esce nel 1874. Nel frattempo i libri di Alice hanno raggiunto una tale fama che nel 1887 uscirà la People's Edition, una produzione meno costosa, mirata a raggiungere un pubblico più vasto, seguita da innumerevoli edizioni ancora più economiche. Qualche anno dopo arriva il momento di The Nursery Alice, pubblicato nel 1890, nel quale Dodgson abbrevia e rivisita il testo in misura sostanziale perché possa essere letto ad alta voce ai più piccoli. La pubblicazione di Alice in Wonderland è un trampolino incredibile per Dodgson, tanto che il suo pseudonimo Lewis Carroll diventa presto un amatissimo e famosissimo personaggio pubblico, costringendolo quasi a vivere due vite parallele. In ogni caso, la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie e il suo seguito Attraverso lo specchio non sono diventate soltanto un classico della letteratura per ragazzi britannica prima e mondiale poi, ma hanno esercitato un'influenza determinante sulle arti figurative per la potenza immaginifica del viaggio onirico concepito da Charles Dodgson. Alcuni dei movimenti artistici più importanti del XX secolo, ad esempio il surrealismo, sono stati suggestionati dall'originale e paradossale concezione spazio-temporale di Alice nel Paese delle Meraviglie, con artisti come Max Ernst e René Magritte che hanno esplicitamente dichiarato il loro debito nei confronti dell'opera di Carroll. Oh, stregato, sei tu! Chi ti aspettavi? Il bianconiglio per caso? Oh, no, no! Ne ho abbastanza di conigli! Voglio andare a casa, ma non riesco a trovare la mia strada. Naturalmente, perché non hai una strada tua. Senza contare il rapporto fertilissimo tra l'opera di Carroll e il cinema. Oltre al celeberrimo adattamento Disney, si contano almeno altre 16 trasposizioni per il grande schermo di Alice nel Paese delle Meraviglie. L'ultima, nel 2010, porta la firma del regista americano Tim Burton. Te l'ho detto che è la vera Alice? Non ne sono convinto. È questa la tua gratitudine? Sono stato lassù per settimane a seguire una Alice dopo l'altra. Sono stato quasi divorato da altri animali. Voi non sapete? Vanno in giro completamente svestiti e fanno i loro cianfrugli in pubblico. Dovevo girarmi dall'altra parte. A me non sembra affatto quella. Certo, perché è la Alice sbagliata. Se lo fosse potrebbe esserlo. Se non lo è, non lo è. Ma se lo fosse lo sarebbe. Ma non lo è in alcun modo. Come posso essere la Alice sbagliata se questo è il mio sogno? E chi siete voi, se posso chiedere? Oh, io Pinco Panco, lui Panco Pinco. Alla rovescia, io Panco Pinco, lui Pinco Panco. Dovremmo consultare il Brucalifo. E poi il repertorio di immagini che la fantasia di Carroll ha fornito al cinema. La tana del coniglio che porta in mondi paralleli è diventato un elemento ricorrente che ha influenzato decine di cineasti e di sceneggiatori. Di che cosa parla? Di uno scienziato e di suo figlio. Il padre scopre questa rete di gallerie che portano ad altre galassie e a universi paralleli. Sì, e lo scienziato muore e il figlio deve entrare in questa specie di tana di coniglio per cercarlo. Ma non è lui, perché lui è morto, è come un'altra versione di lui. Insomma, da un incontro pressoché casuale tra un uomo bambino e una ragazzina, da una banale gita su un fiume, è nato uno dei pilastri della narrativa contemporanea. Per entrambi, sia per Charles Dodgson, sia per Alice Liddell, si tratta di una svolta epocale che segnerà per sempre, nel bene e nel male, la loro esistenza. Destini incrociati. Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll è una delle opere più significative della cultura contemporanea. Oggi a Destini Incrociati vi abbiamo raccontato la storia della sua genesi. La storia, cioè, dell'incontro tra Charles Dodgson, in arte Lewis Carroll, e Alice Liddell, la bambina che ha ispirato la protagonista del romanzo e a cui Dodgson ha donato il romanzo, segnando una svolta nella vita di entrambi. Ci sono delle foto che Carroll ha scattato ad Alice Liddell e che sono giunte fino a noi. Capelli scuri, corti, due occhi azzurri profondamente espressivi e indimenticabili. È probabile che Alice abbia provato un affetto profondo per Dodgson, per quell'uomo bizzarro che in qualche modo era riuscito a renderla immortale. Molto tempo dopo, e dopo anni passati senza aver avuto alcun rapporto con lui, Alice darà al suo terzo e ultimo figlio il nome di Carroll, proprio in omaggio allo pseudonimo del vecchio amico cantastorie. La vita di Alice, dopo la pubblicazione e il successo del romanzo a lei dedicato, prosegue in maniera piuttosto faticosa. Diventata una giovane e affascinante donna, Alice inizia a frequentare niente meno che il principe Leopold, duca di Albany, all'epoca studente presso il Christ Church di Oxford. I due trascorrono insieme molto tempo, ma poi il loro rapporto naufraga per via delle differenze sociali. Il duca sposerà infatti una nobildonna tedesca, mentre Alice finisce per accettare la proposta di un ricco e rozzo compagno di studi, Reginald Gervis Hargraves, rampollo di una ricca famiglia di imprenditori. Le nozze si celebreranno nell'abbazia di Westminster il 15 settembre del 1880. Alice, ormai alla soglia dei 30 anni, è bellissima nel suo abito nuziale. Non sarà però un matrimonio felice per la donna. Hargraves è un uomo burbero e tutt'altro che tenero con lei. La coppia avrà tre figli, due dei quali moriranno purtroppo durante la Prima Guerra Mondiale. Il terzo, Carroll, sarà invece un dandy scialacquatore e spendaccione che con la sua vita dissoluta riuscirà a dissipare interamente il patrimonio familiare. Chissà quante volte in quegli anni bui Alice avrà sognato di sparire nella tana del Bianconiglio insieme allo stregatto e al cappellaio matto. One pill makes you larger and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice. She's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Mentre la vita di Alice proseguiva lungo i binari di un matrimonio di pura convenzione, Dodgson vive una vita sempre più eccentrica e sempre più scissa in due binari paralleli. Nei primi anni 80 dell'Ottocento, Dodgson scriverà alla ragazza con l'obiettivo di rientrare in possesso del manoscritto originale del suo testo per pubblicarne un'edizione fotografica. Non riceverà mai risposta. Mia cara signora Hargraves, immagino che questa le sembrerà una voce d'oltretomba dopo tanti anni di silenzio. Tuttavia, l'immagine mentale di colei che per tanti anni è stata la mia amica bambina ideale è come sempre vivida. Da allora ho avuto molte amiche bambine, ma non è stata mai la stessa cosa. L'ultimo incontro tra Dodgson ed Ellis risale a quando lei aveva circa 18 anni. Un incontro casuale avvenuto ad Oxford, rispetto al quale lo scrittore annota così nel suo diario. Non è facile collegare questo volto al vecchio ricordo, questo volto straniero assieme all'Alice conosciuta così bene e tanto amata, che io vorrei ricordare sempre come una ragazzina di 7 anni assolutamente affascinante. La vita di Dodgson ad Oxford è una vita perennemente ai margini. La sua intelligenza fuori dal comune, il suo talento per la narrativa e la fotografia si accompagnano però ad una scarsissima capacità di entrare in sintonia con il mondo. Solo il mondo dei bambini sembra dargli serenità e da qui i sospetti mai provati di pedofilia. Mentre sul suo alter ego Lewis Carroll sorgono miti e leggende, quasi fosse una creatura proveniente dal mondo incantato delle fiabe, Dodgson si impone un'esistenza malinconicamente ai bordi della vita vera. Il suo estro e il suo intuito sono provati anche dalle innovazioni apportate nel campo della fotografia, di cui resta uno dei grandi pionieri. Dall'invenzione di un sistema di scrittura detto nictografia, che consente di scrivere al buio usando un codice di segni su una griglia rettangolare dotata di buchi quadrati, e da un gioco di carta e matita, il Word Ladder, molto diffuso in tutto il mondo. Il 14 gennaio 1898, poco prima di compiere 66 anni, una bronchite lo spegne, appena dopo aver dato alla stampa l'ultimo romanzo di Lewis Carroll intitolato Sylvie e Bruno. Nel 1932 la Columbia University di New York ha organizzato una commemorazione per il centenario della nascita di Dodgson, a cui Alice Liddell viene invitata come ospite speciale. Nonostante l'età ormai avanzata, la donna decide di volare negli Stati Uniti accompagnata dal figlio Carol e dalla sorella minore Rhoda, ricevendo una laurea honoris causa che celebra proprio il suo passato di musa ispiratrice. Alice Liddell morirà 2 anni più tardi, il 15 novembre del 1934, nel Kent, in una casa che aveva preso in affitto per stare vicino alla sorella minore, l'ultima persona ancora in vita che fosse in grado di rievocare con lei il passato, quegli anni in cui, ancora bambina, un uomo introverso, bizzarro e solitario le aveva dedicato una storia destinata a diventare leggenda e a renderla immortale. Leaving LA, trying to figure out my life, my youth scattered along the highway. Hotel rooms and headlights.